Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, sapete quali sono le due aziende che hanno inventato l'Industry 4.0 di cui si parla tanto? Sono aziende americane? Sono quelle che predicano l'innovazione disruptive? Sono quelle che vendono il software? No, sono aziende tedesche. L'Industry 4.0, che dovremmo chiamare Industry 4.0, è stata definita da un comitato che ha previsto la politica industriale della Germania nell'ambito della cosiddetta Tech Strategy for Germany, e le due aziende più importanti che sedevano in questo comitato erano la Robert Bosch e la Siemens. La Robert Bosch, peraltro, è il maggior produttore mondiale di componenti per automotive e quindi è sulla frontiera dell'innovazione. In Italia continua a crescere nel mondo dell'automotive anche se il mondo dell'automotive si restringe. E questo è un po' un paradosso. Tutte queste cose sull'Industry 4.0, su come usarla, su come adattarla, sull'innovazione, sull'automotive, le chiederemo all'amministratore delegato della filiale italiana, che si chiama Gerhard Dambach ed è oggi ospite con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Allora, l'Industry 4.0 l'avete inventata voi? Diciamo siamo stati parte delle aziende che avevano cominciato a ragionare su questo concetto e era un membro del board che alla fine aveva anche il coraggio di parlarne pubblicamente. Ecco, perché è un concetto un po' tedesco quello di una unica interconnessione, di una creazione di un tutto. Ricorda anche un po' Hegel. Sì, si cerca sempre di vedere il tutto come un complesso che possa anche funzionare insieme. E l'Industry 4.0 non cerca di fare altro che mettere insieme le cose e far parlare le cose tra di loro. Ecco, solo che gli americani parlano tanto di disruptive, di cambiare tutto improvvisamente. Invece il concetto vostro di Industry 4.0 è che ci deve essere un cambiamento graduale. Assolutamente sì. Ci sono due possibilità su come procedere. O partiamo top down, cambiamo tutta la fabbrica, cominciando dall'alto, dal sistema produttivo, o cominciamo bottom up. Noi in Italia abbiamo un problema che le aziende oggi non hanno le riserve per rischiare cambiando tutta la fabbrica. La fabbrica deve funzionare. Io devo inserire il concetto dell'industria 4.0 quando la macchina, la fabbrica, funziona. E devo garantire che durante tutto questo processo la fabbrica produca sempre. Perciò dobbiamo iniziare questo processo con piccoli passi e dobbiamo cominciare alla base. Certamente. E quindi l'imprenditore che è in ascolto e dice: se io non aderisco all'Industry 4.0 resto escluso. Il titolare della piccola impresa italiana che magari fa 10, 20, 30, massimo 50 milioni di euro di fatturato, secondo lei che cosa deve fare? La prima cosa che farei io è identificare qualche risorsa all'interno della mia fabbrica che o è già informata, che ho già fatto un certo tipo di formazione, o che metto io a fare la formazione per prepararsi all'industria 4.0. Ci vogliono le risorse, poche ma buone, e queste risorse sono le prime cose che oggi dobbiamo procurare per l'azienda. Risorse competenti. Risorse competenti devono avere la competenza all'interno della fabbrica, devono capire la fabbrica, devono conoscerla e devono anche avere le capacità per interpretare i concetti dell'industria 4.0, un po' di software, un po' di elettronica, un po' di sensoristica. Queste cose si possono anche studiare e imparare e dobbiamo identificare la persona giusta che è aperta per studiare questo, conoscendo già la fabbrica. Così si può iniziare questo percorso. Ecco, allora, dicevamo, quello che conta è la formazione, ma soprattutto il problema è che Industria 4.0 si basa sull'interconnessione totale, cioè sul fatto di mettere i sensori sui componenti, poi il componente trasmette dei dati su se stesso al produttore, ma anche all'utente, anche al manutentore, si genera una massa enorme di dati che bisogna interpretare. Prima di arrivare a quello, forse l'industriale che ci ascolta potrebbe dire quali passi faccio, come mi comporto. Magari si potrebbe pensare di mettere qualche sensore su qualcosa e vedere cosa succede? Sì, si comincia proprio così, ma forse comincia con un esempio ancora più basico, perché noi abbiamo chiesto a qualche apprendistato che avevamo in Germania di digitalizzare un tonio, tonio del 1887. Una macchina che funzionava ancora attraverso la pedivella, e abbiamo chiesto di pensare un attimo cosa si potrebbe fare con Industria 4.0. E questi ragazzi non sapevano nemmeno utilizzare questo tonio, ma c'era qualcuno che sapeva spiegare. Quali sono i problemi? Primo problema, la velocità. Deve avere assolutamente la giusta velocità, altrimenti non funziona bene. E c'era un secondo problema, e questa è la cinghia di trasmissione. Appena comincia a slittare, e questa tende sempre un po' dopo un po' di tempo a slittare, a quel punto la macchina non funziona più bene. Che cosa hanno fatto i ragazzi? I ragazzi hanno messo prima un sensore per registrare i giri che faceva questo tonio, e hanno messo anche un sistema per controllare se la cinghia ha esattamente la stessa velocità del tonio. Se no, c'era subito il segnale. Sono riusciti a migliorare la qualità del lavoro di questo tonio al 100%. E se avessimo avuto questo sistema già 130 anni fa, questa macchina sarebbe sicuramente stata quella migliore. E che cosa c'entra con l'Industria 4.0? Innanzitutto spiega che non c'è nessuna macchina che è troppo vecchia per essere digitalizzata. Mm-hmm. Dobbiamo solo capire qual è il problema della macchina. Dobbiamo cominciare da lì. Se oggi un imprenditore ha una piccola fabbrica e mi chiede dove cominciare, la prima cosa è tu devi avere una persona all'interno della tua fabbrica che può seguire il progetto. Seconda cosa, qual è la macchina che per te è più importante e dove ogni tanto hai un problema? Cerchiamo di capire il problema. Identifichiamo esattamente quali sono potenzialmente i parametri che possono influenzare il funzionamento di questa macchina. E poi cominciamo a mettere i sensori e misuriamo. Quando la prossima volta tu vedi il problema, analizziamo i dati per capire ma perché è successo e quali sono i parametri che ci segnalano che qua c'è un problema che potrebbe venire fuori. A quel punto ho già il meccanismo su come in futuro prevenire al problema. Appena vedo che i dati mi segnalano potenzialmente questo problema, comincio a fermare la macchina, metterla a posto, e da lì posso anche cominciare a pensare ma perché si ripete questo problema, per migliorare la macchina. Tutto lì. Ecco, Bosch l'abbiamo ricordato come un produttore di componenti per automotive, anzi il primo al mondo, anche perché fa due prodotti importanti come le batterie e le candele, ma non è solo questo. La società è attiva in quattro settori: automotive, automazione industriale, elettrodomestici, energy and building technologies. Tutto questo ne fa una multinazionale da 70,6 miliardi di ricavi. Anche la presenza nel nostro paese di Bosch è notevolmente importante, con 2,2 miliardi di ricavi. E quanti dipendenti? Abbiamo attualmente 5.700 dipendenti e arriveremo quest'anno, se tutto va bene, a 2,6 miliardi di euro di fatturato. Cioè da 2,2 eravate, diciamo, se non erro. No, erano un po' di più, siamo stati a 2,4 e qualcosa, perciò la crescita quest'anno sarà intorno al 5-6%. Ma siccome diminuisce la produzione di automobili in Italia, che ormai sono solo 400.000, com'è possibile che voi crescete proprio in Italia dove si fanno meno auto? Da un punto di vista tecnologico abbiamo oggi macchine che sono molto diverse da quelle di ieri. Abbiamo molta più tecnologia innovativa, anche se qui non si chiama industria 4.0, ma la digitalizzazione all'interno della macchina è importante. Il gruppo Fiat sta investendo moltissimo in questo settore e lì abbiamo la possibilità di crescere con la nostra quota all'interno delle macchine. Ah, e dall'Italia fate anche delle produzioni che poi finiscono in altri paesi? Sì, sviluppi facciamo spesso anche in Italia e le macchine poi vengono prodotte in tutto il mondo, comunque si parte in Italia. Dov'è che sono i vostri principali stabilimenti? Abbiamo per la produzione sicuramente Bari, dove facciamo tecnologia diesel con quasi 2.000 persone, abbiamo a Crema Ovanengo un altro stabilimento che ha quasi 500 collaboratori che fanno le pompe del vuoto. Poi abbiamo naturalmente tutti gli ingegneri che sono a Torino vicini al cliente e abbiamo tante altre piccole strutture che supportano questo business. Senta, ma se crescete così tanto vuol dire che assumete? Abbiamo durante la crisi dovuto cambiare la struttura dello staff, ma tutto sommato siamo cresciuti, sì. Quindi ci sono delle posizioni aperte per ingegneri magari? Abbiamo alcune posizioni aperte, diciamo non siamo purtroppo ancora arrivati al fatturato che avevamo nel 2007, perciò c'è ancora un po' di spazio di miglioramento. Ma qualche giovane ingegnere lo prendete? Sì, certo, certo. Ecco, chi fosse interessato a candidarsi, lei si ricorda a memoria qual è la email per scrivere a Bosch sulle posizioni aperte? www.bosch.it e lì c'è la pagina dove le persone possono introdurre direttamente i dati. Non prendiamo nemmeno più la carta, non aspettiamo più la mail, lì si riesce ad inserire tutto online e viene processato anche online. E viene processato, non è che uno dice io scrivo sul sito e poi nessuno lo guarda. No. Il nostro sito sostituisce tutta la carta. Ah, del resto se no non potreste fare innovazioni. Ci interrompiamo un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, siamo in studio con Gerhard Dambach, che è numero uno in Italia di Bosch, maggior produttore mondiale di componenti per il mondo dell'auto. Ecco, ma dal vostro osservatorio, il mondo dell'auto come sta cambiando? Le macchine oggi stanno diventando sempre più digitalizzate. Lo vediamo perché le macchine diventano più sicure, fanno attenzione anche quando l'autista forse non se ne accorge nemmeno e le macchine vanno per forza verso la guida autonoma. Questo è un capitolo che fra 5, 6, 7 anni ci sarà. E noi lo vedremo solo gradualmente, anno per anno si aggiungeranno altre funzioni che ci aiutano a guidare sempre in maniera più semplice e sicura. Su Robert Bosch sentite qua. Robert Bosch è una multinazionale tedesca che fattura circa 70 miliardi di euro e ha 320.000 dipendenti nel mondo. È attiva nei componenti per l'automotive, settore nel quale è leader mondiale, negli elettrodomestici e nell'automazione industriale. Sperimenta nelle sue fabbriche le innovazioni industriali che poi offre agli stabilimenti produttivi delle aziende clienti. Insieme a Siemens e al governo tedesco, Robert Bosch è tra gli inventori del concetto di Industry 4.0 e all'avanguardia nel suo sviluppo. In generale, ci sono quattro colossi manifatturieri che creano le tecnologie e le modalità operative che poi si diffonderanno in tutto il mondo, cambiando la vita di 7 miliardi di abitanti dell'umanità. Due sono le già citate tedesche Siemens e Bosch. Poi ci sono l'americana General Electric e la svizzero-svedese ABB. Bosch, guidata dall'amministratore delegato Franz Fehrenbach, ha sede a Gerlingen, a 9 km da Stoccard, dove venne fondata da Robert Bosch nel 1886, che le diede il suo nome. La società fece subito breccia nel mondo meccanico e automobilistico grazie all'invenzione del magnete per accensione a bassa tensione, popolarmente noto come candela per auto. Il suo fondatore era un personaggio geniale e poliedrico, un inventore talentuoso, filantropo e oppositore al nazismo. Prima di morire, Robert Bosch dispose che il controllo della sua azienda sarebbe passato a una fondazione filantropica e senza fini di lucro, che ancora oggi ha in mano oltre il 90% del capitale. Anche per questo motivo, la multinazionale tedesca non è quotata in borsa. Robert Bosch è il maggior produttore mondiale di componenti per automotive, che attualmente generano circa il 60% dei suoi ricavi. È anche attiva nella fabbricazione di semiconduttori, elettrodomestici, prodotti per la generazione e la trasmissione di energia, motori di vario tipo, elettroutensili come trapani e seghe circolari. Negli elettrodomestici, Bosch è il terzo produttore europeo e uno tra i primi al mondo. L'azienda è presente in 150 paesi, con 90 stabilimenti produttivi e 300 filiali commerciali. Il suo payoff è Tecnologie per la vita. In Italia, Robert Bosch, guidata dall'amministratore delegato Gerhard Dambach, fattura circa 2,2 miliardi di euro e produce direttamente merci per un controvalore di 1,3 miliardi. L'azienda tedesca, che ha 6.000 dipendenti, è presente nel nostro paese fin dal 1904, con 19 società controllate, 4 centri di ricerca e stabilimenti produttivi a Cremona, Reggio Emilia, Modena e Bari. Allora, dopo la scheda che racconta la storia di questa azienda, siamo ancora in studio con Gerhard Dambach, che è l'amministratore delegato in Italia. Un tema molto legato all'Industry 4.0 è quello della formazione, perché il problema è che ci sono enormi masse di operai che rischiano di essere sorpassati da questa nuova tecnologia o quarta rivoluzione industriale che sia. Questo purtroppo è da prevedere. Oggi all'interno della nostra azienda abbiamo una quota tra il 30 e il 40% di operai che non sono ancora specializzati. Quelli stanno eseguendo delle attività o ripetitive o molto basiche, semplici. E sicuramente qua la quota sarà molto minore in futuro. Si stima forse un 10% che troverà ancora lavori di questo tipo all'interno di una fabbrica digitalizzata. Cioè sta dicendo che la fabbrica digitalizzata potrebbe ridurre l'occupazione del 90%? Cambia la struttura degli operai, vuol dire che questi lavori semplici saranno sempre di meno e dobbiamo qualificare un 20-30% dei nostri collaboratori. Questa è una sfida vera perché tanti di questi collaboratori sono già abbastanza avanti con l'età e quello che devono studiare non è una materia semplice e non è niente che conoscono già. Perciò qua abbiamo davanti un impegno e una sfida importante. Dobbiamo affrontare questo argomento. Ma non basta questo, perché nel frattempo ci arrivano anche i giovani che escono dalla scuola e non hanno ancora sentito niente che può essere utile per avvicinarsi al mondo Industria 4.0. Le scuole oggi non hanno ancora nessun contenuto che può aiutarli a iniziare questa avventura. Ecco, ma lei che cosa pensa del piano sull'Industria 4.0 recentemente lanciato dal governo italiano? Come lo valuta in relazione a quanto sta avvenendo in Germania, negli Stati Uniti e in altri paesi avanzati? La politica in questa fase è molto attenta e vedo anche che il Ministero oggi sta lanciando delle misure che vanno nella direzione giusta. L'unico problema che abbiamo è che nessuno sa, ma nemmeno negli Stati Uniti, nemmeno in Germania, come preparare bene i ragazzi e soprattutto i collaboratori già un pochettino più anziani a questa nuova sfida. Perciò dobbiamo sperimentare e questa sarà adesso la prossima avventura che cominciamo anche qui in Italia, studiare bene come riusciamo ad avvicinare questa gente alla nuova tematica. Ecco, ma io mi sono occupato di politica industriale anche nel mio libro che si chiama Industriamo l'Italia, ho raccontato la politica industriale fatta in Germania. E queste misure sì sono un passo avanti, però in Germania a livello di politica industriale anche la famosa High Tech Strategy for Germany che citava all'inizio si è fatto molto di più. Purtroppo a scuola queste cose non sono arrivate. O ci sono le aziende che attraverso la formazione duale riescono a trasferire le competenze, e queste quelle che stiamo facendo in Bosch, o i ragazzi escono dalla scuola e non hanno questa preparazione che serve. Qui abbiamo lo stesso problema che abbiamo anche in Italia. Però parlavo di politica industriale, delle misure di politica industriale del governo. Quelle fatte in Italia non sono dello stesso livello di quelle tedesche o americane. Sicuramente abbiamo qualche anno da recuperare, ma comunque l'attenzione sta crescendo in questa fase e stiamo cominciando a mettere le misure per portare avanti l'industria. Siamo ancora all'inizio, comunque l'attenzione adesso c'è. Ecco, una cosa che secondo me rappresenta una notizia è il fatto che Robert Bosch è entrata direttamente nell'industria del software. Voi iniziate a offrire vostri software ai clienti e questa è una notizia e si lega anche con quello che io dico spesso, che la fabbrica nel mondo della quarta rivoluzione industriale sta diventando una gigantesca software house. Che cosa ne dice? Storicamente si poteva vivere molto bene come fornitore di componenti. Oggi i componenti non interessano più, i clienti vogliono delle soluzioni, ma soluzione spesso significa qualche componente, una logica dietro e soprattutto software. Perciò siamo obbligati ad avere la software a disposizione, ma oggi dobbiamo fare anche un passo avanti, perché non basta più avere delle soluzioni seguendo degli standard. Per l'industria 4.0 oggi questi standard non ci sono ancora. Dobbiamo creare in parallelo anche gli standard. E questo è un compito veramente interessante. Ma che cosa c'entra col software? Ma se io faccio un pezzo di software, lo vendo al cliente, il cliente fra 2 anni vuole ampliare la sua produzione e si vede davanti ad un altro pezzo di software comprato da un altro fornitore e questi 2 elementi non si parlano. A quel punto deve rifare o l'una o l'altra parte. E quindi deve avere gli standard. Dobbiamo per forza avere gli standard e non abbiamo il tempo che normalmente ci si prende per fare prima lo standard e poi le soluzioni. Dobbiamo farlo contemporaneamente. Dobbiamo chiudere. Saluto gli ascoltatori, arrivederci a domani ore 13:10. Saluto il dottor Dambach. Grazie per essere stato lì e saluti alla prossima volta. Arrivederci.